Allora inizierei con una notizia dagli interni, anzi direi internissimi. Allagati gli studi di Roar, un compagno, siamo nella merda. Questa mattina un vile attacco di stronzi ha provato a inondare gli studi di Radio Onda Rossa, mettendo a dura prova l'olfatto e la rigidità di stomaco di chi si trovava in radio in quei bui momenti. I compagni e le compagne, determinati e compatti, hanno risposto incordonandosi ed erigendo barricate e respingendo le copiose cariche attuate dagli stronzi. Abbiamo in diretta un compagno che è stato sorpreso proprio alle spalle da uno stronzo questa mattina in radio. Pronto? Pronto, ci senti? Un po' bassino, puoi alzare... Sì, mi senti meglio adesso? Ok, adesso mi sento decisamente meglio. Ciao. Buonasera. Allora, raccontaci questa tua terribile esperienza, ecco. Qua ancora siamo, insomma, in piena emergenza, come dire, anche se, come dire, la giornata è iniziata ben presto stamattina, quando, insomma, questo, come dicevi poc'anzi, questo... attacco vile, direi, vile soprattutto alle spalle, è arrivato e diciamo chiaramente non eravamo preparati a un assalto di questo tipo, non eravamo così, non ci aspettavamo effettivamente una cosa di questa portata, però devo dire insomma come al solito la radio ha reagito bene, compagni e compagne compatti hanno arginato questa ondata di merda, possiamo dirlo? Sì. Sì, certo. Che ha tentato insomma di così di aggredire la radio, però così sacchetti di sabbia, pale, secchi e quant'altro, insomma abbiamo reagito bene, diciamo che per il momento così abbiamo tenuto botta. Senti, credi sia possibile che ci sia stato anche lo zampino degli anarchici Notav? Ah, tu pensi? Ma non credo, noi diciamo con solitamente siamo alleati con queste situazioni, per cui poi non lo so. Lo so, ma quelli lì sono anarchici, guarda, fanno come gli pare, sono regole. Sì. Guarda, noi ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo. Guarda, non lo so. Direi in culo alla balena. Aggiornamenti. Direi in culo alla balena, ma non mi sembra il caso, ecco. non saprei neanche come risponderti. Peraltro questa scaramanzia. Fantastico. Okay. Va bene, allora buona fortuna e ai prossimi aggiornamenti. Ai prossimi, grazie. Ciao. Ciao.